solo chiacchiere e distintivo, solo chiacchiere. Due e 49 minuti primi, le frequenze di Radio Onda Rossa. Innanzitutto un saluto alla nuova arrivata, e non poteva mancare. Dopo che la vecchia, colei che per molti anni ha anche attraversato e anche stata qui accucciata ai miei piedi, durante ai nostri piedi, durante 25 o'clock, un saluto, un benvenuto a Marilyn. Ancora troppo giovane, troppo piccola per venire a farci compagnia e magari intervenire con qualche abbaio, qualche latrato. Però insomma, nei prossimi mesi sarà anche questo. Allora, Elettrodo ha dato la fine al ciclo di trasmissioni 2019-2020, dando appuntamento a fine agosto, inizio settembre. Noi credo pure, però chissà che pure mercoledì prossimo non abbiamo voglia poi da remoto qua. Ma la voglia ci sarebbe anche, non sappiamo se avremo occasione per farlo. Comunque un agosto, un luglio, un fine luglio, un agosto che sta facendo il suo lavoro in termini di temperature. Radio Onda Rossa continua a trasmettere per qualche tempo ancora, poi si fermerà un attimo o quasi. Noi abbiamo approfittato per tornare dove noi non è un plurale maiestatis, ma è una constatazione di fatto. Infatti questa sera, come talvolta accade, lasceremo spazio, già introdotto il fantasma, quindi da Elettrodo non abbiamo provato il microfono, vediamo un po' se va in onda. Nel frattempo Chissà, vediamo, eccolo, è lui. Buonasera a tutte e tutti. Noi ci eravamo preparati, ma poi ci siamo accorti che mancavano dei file, quindi era così, stasera era così, insomma, si prova a improvvisare. No, ma d'altronde poi, se l'idea era quella di proporre insomma un viaggio spazio-temporale attraverso le dimensioni, non è che puoi seguire un programma schematico fisso. No. E quindi no, peraltro appunto abbiamo sperimentato in questo questa stagione così la vicenda dei trip virus, quindi l'idea era un po' quella, e di provare a farla dal vivo. Ci alleneremo magari di più per riuscire a fare un trip virus live, e magari, che so, un giorno riuscirlo proprio a proporre quando finirà questo dannatissimo virus e questo dannatissimo impedimento ad incontrarci e soprattutto ad appiccicarci, a pogare, a stare vis to vis e ritornare a scambiare umori e pelle, che è la cosa che ci appartiene di più e che più ci manca in questo momento. Vabbè, comunque vi dico che siete all'ascolto di Radio Onda Rossa 87.9 della modulazione di frequenza della banda romanellaziale, che la radio, benché appunto sia luglio e agosto, comunque per vivere ha bisogno del vostro contributo sempre. perché Radio Onda Rossa è una radio aperta a chi lotta, a chi si dà da fare, a chi c'ha da ridire. Quindi andate sulla web page di Radio Onda Rossa, www.ondarossa.info, ci andate dentro, in alto c'è il banner ancora che campeggia per il radioabbonamento della radio, 30 per 1000, cliccate dentro e versate i vostri 30 euro all'anno se non l'avete già fatto, oppure passate qua direttamente negli studi della radio a Via dei Volsci 56 a San Lollo, Onda Rossa @ondarossa.info per le vostre comunicazioni alla radio, 25 o'clock @ondarossa.info per mandare a noi insulti o trip virus, come vi pare, o anche tutte e due le cose. 0649 17 50, fate sentire che ci siete, si comincia così. Comincia così, vai. È chiaro, è chiaro. Quando la redazione si tinge di luce rossa, significa solo una cosa. Vai. Thank you. Eh sì. Qual è migliore occasione delle emergenze? Dello stato emergenziale, dello stato d'emergenza? Per normalizzare. Migliore occasione dello stato di emergenza per giustificare le espulsioni di massa, il controllo sui corpi. Quale migliore occasione per sperimentare? Quale migliore occasione che affinché venga edificata quella distopia? Quell'ordine supremo che vorrebbe sopprimere il caos degli atomi e delle molecole del cosmo. Qual è la migliore occasione per giustificare la brama di dominio e di controllo? E leggiamo un comunicato a firma di Compagni e Compagne in merito agli ultimi fatti avvenuti qualche giorno fa. Venerdì 24, ma poi anche sabato 25, reparti antiterrorismo della Polizia di Stato, la Digos di Roma, Latina e Torino, si preparano all'azione alle prime luci del mattino. Per questa importante operazione sono pronti a tutto. Passamontagna e pistole spianate entrano nelle case di pericolosi sovversivi. Obiettivo? Trovare prove che facciano luce sugli autori di un gravissimo, terrorizzante reato. Un lancio di vernice rossa all'ambasciata cilena, datato 30 ottobre 2019. Ma cosa succedeva in Cile in quei giorni? Il 7 ottobre 2019 era un lunedì. Quel giorno alcune centinaia di studenti delle secondarie di Santiago del Cile, scavalcando al grido di evade, i tornelli delle stazioni della metropolitana contro il rincaro delle tariffe, diedero avvio a una delle più basse e significative tra le rivolte sociali che in tutto il pianeta stanno segnando questo tempo. In un paese reso sotto la sanguinosa dittatura di Pinochet, un laboratorio delle ricette liberiste, che attualmente vede l'1% più ricco della popolazione concentrare oltre un quarto del reddito nazionale, mentre ad oltre metà della popolazione resta il 2% della ricchezza, con sanità e istruzione privatizzate, affitti e prezzi liberalizzati e metà dei salari appena sopra il reddito minimo. Quella protesta divenne una ribellione. Il lunedì successivo, il 14 ottobre 2019, le stazioni della metro di Santiago cominciarono a chiudere per l'intensità degli scontri. Nei giorni successivi iniziarono a essere distrutte dai manifestanti e venerdì 18 l'intero centro di Santiago divenne teatro di barricate e battaglie di strada, con la polizia militarizzata dei Carabineros. La sera del 18 il presidente fascioliberista Sebastián Piñera, dopo essere stato sorpreso sorridente e rilassato a una cena in un ristorante di lusso, proclamava lo stato di emergenza per 15 giorni e il dispiegamento dell'esercito nelle strade. Il 19 veniva imposto il coprifuoco nella capitale, esteso rapidamente a tutti i maggiori centri urbani del Cile, in misura della costante estensione delle proteste e degli scontri. Il 25 ottobre 2019, malgrado la chiusura delle scuole decretata dal 22 e una scia di morti sotto il fuoco dei militari, a partire dal 20, oltre 1 milione di persone scendevano in piazza Santiago. Il 26 ottobre il bilancio della repressione dall'inizio della rivolta contava 19 morti, circa 2.500 feriti, dei quali molti resi orbi dalle pallottole di gomma sparate dai reparti antisommossa, e 2.840 persone arrestate. Il 27 Piñera era costretto a richiedere le dimissioni del governo, cambiato il 28 con la rimozione di 8 ministri, in primo luogo quello dell'interno, Chadwick. Il tentativo a novembre di sedare la ribellione sociale con l'indizione di un referendum costituzionale per aprile, poi con il Covid rinviato al prossimo autunno, è fallito. Al 28 dicembre 2019 le vittime della repressione erano cresciute a 29 e a febbraio di quest'anno, dopo un picco delle proteste a gennaio, erano 36. Mentre le persone che hanno perso un occhio per i colpi sparati dalle forze repressive sono centinaia. Fin dall'ultima settimana di ottobre 2019 si è manifestata una forte solidarietà internazionale con la lotta della popolazione cilena e contro la sua feroce repressione, con cortei, presidi e azioni in tutto il mondo. Si potrebbe ironizzare sul grottesco agire delle forze dell'ordine e della magistratura italiana che, a fronte di quello che succedeva in Cile, apre un'inchiesta scomodando l'antiterrorismo per l'imbrattamento della sede diplomatica del paese sudamericano. Ma comprendiamo l'obiettivo di queste perquisizioni: intimidire e allo stesso tempo accumulare materiali per futuri castelli di carta, come da sempre usano fare. Non a caso il PM è lo stesso che ha firmato l'arresto di 7 tra compagni e compagni nell'operazione Bialystok, in cui le accuse di associazioni con finalità di terrorismo ruotano con insistenza attorno iniziative comunicative, relazioni, scritte, pubblicazioni, giornali, eccetera. Tutte cose la cui gravità è chiaramente quella di esprimere idee considerate pericolose e perseguibili dalla magistratura. In un paese sull'orlo di una crisi che potrebbe mettere seriamente in discussione l'egemonia capitalista sul vivente, non c'è da stupirsi che gli apparati dello Stato tentino di emarginare e rimuovere preventivamente tutte quelle realtà che potrebbero essere un catalizzatore di rabbia e desiderio di trasformazione. Per questo motivo non riteniamo sia da sottovalutare o da ridicolizzare questo episodio, proprio perché si inserisce in un tempo in cui operai, braccianti, persone detenute in lotta e realtà militanti vengono attaccati sempre più ferocemente dai guardiani dell'ordine costituito. Chiunque abbia imbrattato quei muri ha la nostra solidarietà e complicità, come tutto il nostro amore va ai ribelli e alle ribelli cilene. Luglio 2020, da compagni e compagne. E qui King Buzzo ci fa degli arpeggi molto particolari, con l'ausilio delle leggi dell'onnipresenza del caos e dello stato di grazia dei CDJ della radio. E noi lasciamo i microfoni al fantasma per una lunga galoppata nel cosmo. obbligazioni, investimenti, immobili, pacchetti azionari all'estero. Posso riaverli, posso riavere tutto. Farò qualche telefonata, devo ristabilire il mio castelletto. Riceveranno le mie chiamate. E perché non dovrebbero riceverle? Sono Gotham Bolt, l'uomo più ricco del mondo. Il più ricco, il più ricco! Stia zitto! Sono Paul Getty Junior. Io ero l'uomo più ricco del mondo. Ma non mi senti sbraitare e farneticare per questo, vero? No! Ho accettato le mie sconfitte. Quali sconfitte? Durante il crollo, lo scontro, il tracollo. Ascoltami, tu non sei Paul Getty Junior. Sei solo un piccolo vagabondo patetico e malato di mente. Nel tuo cervello credi di essere Paul Getty, ma non lo sei. Mentre, d'altro canto, io sono Goddard Bolt, un vero gigante della finanza. Anch'io. Tu no, io sì, tu no, io sì, tu no, io sì. Aspetta, vieni con me. Dove andiamo? Un po' più in là, parliamo. Fammi a sentire, siamo ragionevoli. Ok. C'è un'enorme differenza tra noi due. Anche se nella tua mente è confusa, pensi di essere ricco, non lo sei in realtà. D'altra parte, con la mia profonda comprensione del mondo della finanza, ho accumulato 6 miliardi e 400 milioni di dollari. E io invece ne ho accumulati 6 e 5. Non è vero. È vero. Non è vero. È vero. Non è vero. È vero. Aspetta. Un minuto, aspetta un minuto, lascia che ti mostri cosa. Questo. Oh! Oh! Senti. Non voglio ferirti. Davvero? No, è solo che è importante per me che tu capisca. Penso che non faccia nessuna differenza chi è più ricco, vero? No. Beh. In a little while I'll be completely like they are. Strong and powerful, powerful, powerful, powerful, powerful. I have power, I have power, I have the power, I have the power, I have the power. Of mirth, the witch turned him into stone, Stonehenge has the heel stone. It's a travel terminus. Ho chiesto alla guida come liberare un prigioniero da Voxfera. Ha detto non se ne parla proprio. Immagino abbiate un piano migliore. Beh, io avrei un'idea che forse... Oh! No, non l'ha visto nessuno. Che cosa? Che hai fatto? Ah, niente. Niente, me lo sono immaginato. Oh! Ok, ora fermi, fermi tutti. Fermi, state dove siete, guardatemi, c'è... decisamente qualcosa di strano qui. Fermi lì. Guardate. Guardate. Va bene, io penso che... Anche tu! Sì, che cos'era? Io penso... Zephod, tu che ne pensi? Io penso... Sargo, che cos'è? Ehi! Avrei un suggerimento, ma non mi ascoltereste. Nessuno mi ascolta mai. Io ho un'idea. Uccidilo! Sbarazzatene! Ok? Non pensate. Nessuno pensi. Niente idee, né teorie, né niente. What makes you hear it one way or the other when everything else is controlled is a total mystery. toccherà mai. Cosa c'è? Deve vederlo con i suoi occhi, dottore. Deve vederlo con i suoi occhi. Ehi, dottore. Dottore, che succede? Dottore, e lei che ne pensa? You're walking. No, no, no. Questo cos'è? Non ho finito. Ita, faccia con calma. Che stai disegnando? La vera storia dell'umanità. La vera storia, niente finzioni, niente bugie. Africa, 2 milioni di anni fa. Esseri umani, poi si spostarono. Emigrarono. 10.000 anni fa, la civilizzazione. Tu. Quello sono io e anch'io. Noi. E chi sono quelli? La società tribale. Cacciatori, coltivatori, agricoltori. Non uccidevano mai più animali del necessario. Non aravano mai più terra di quanta gliene occorresse. Combattevano, ma non incitavano mai alla guerra. Non erano sterminatori. Avevano un posto nel mondo. E del mondo loro facevano parte. Lo dividevano con gli altri. Cosa che abbiamo cambiato. E con questo dovremmo fare marcia indietro. Dove ci porterebbe, dimmi? Via di qui. Via dove? Fuori dai piedi. Oh, scusa. Dovremmo abbattere le città? Vagare per la giungla come hai fatto tu? È un argomento stupido e speccioso. Risolvilo tu. Io ho da fare. Sei un rompiscato. Lo so. Ora vattene. Dominio. Cosa? Dobbiamo rinunciare a una cosa solamente. Al nostro dominio. Non siamo i padroni del mondo. Non siamo re, né dei. Possiamo rinunciare a questo. Troppo prezioso tutto quel controllo. Troppo allettante essere un dio. Abbiamo un interlock di traduzione sul loro segnale audio. Questa conversazione la continuiamo noi. Aiuto, aiuto! Aiuto! La peste! Che si chiede? La peste! Eccolo, Fedore! Puttana! Scappiamo, scappiamo! Aiuto! Come seguiamo Aquilante e gli conosce la via della fuga. Via, via, via, corre! Non la lascio! Siamo tutti ammorbati! Via, Aquilante! Moriamo tutti, scappiamo! Via, via, via, via, via, via! Maledetta città, corretta! Via! Che brutta magnata che vi ho fatto! Forza, vecchio! Più presto! Chiaro che si rompe la cassa! The sacrifice, the sacrifice. You say you want a sacrifice. You say the words too easily to know just what you mean. From black pale or white hen, I struggle with your knife. Sacrifice.

Mr. Stenner. Al, apri la sera sinistra esterna. Pronto, Al, mi ricevi? Pronto, Al, mi ricevi? Mi ricevi, Al? Mi ricevi, Al? Pronto, Al, mi ricevi? Pronto, Al, mi ricevi? Mi ricevi, Al? Affermativo, David, ti ricevo. Apri la sera sinistra esterna, Al. Mi dispiace, David. Purtroppo non posso farlo. Qual è il motivo? Credo che tu lo sappia altrettanto bene quanto me. Ma di che diavolo? Questa macchina è troppo importante per me per lasciare che tu la manovri. Non so a cosa ti riferisci, Al. Io so che tu e Frank avevate deciso di scollegarmi. E purtroppo non posso permettere che questo accada. E come ti è venuta questa idea, Al? David, anche se nella capsula avete preso ogni precauzione perché io non vi udissi, ho letto i movimenti delle vostre labbra. D'accordo. Rientrerò attraverso il portello di emergenza. Senza il tuo elmetto spaziale, David, troverai la cosa piuttosto difficile. Al, non voglio discuterne più. Apri la sera sinistra. David, questa conversazione non può avere più alcuno scopo. Addio. Al? Al? Al? Al? Il sesto membro dell'equipaggio del Discovery non ha dovuto essere messo in condizione di ibernazione, perché in realtà è l'ultimo ritrovato in fatto di macchine pensanti. Il calcolatore HL9000, che può riprodurre, alcuni esperti preferiscono la parola imitare, la maggior parte delle attività del cervello umano, con una velocità e una sicurezza incalcolabilmente maggiori. Abbiamo parlato con il calcolatore HL9000, al quale ci si rivolge chiamandolo HAL. Buonasera, HAL. Come vanno le cose? Buonasera, signorelle. Tutto va estremamente bene. HAL, tu hai un'enorme responsabilità in questa missione. In molti sensi, forse la maggiore responsabilità di ogni altro membro dell'equipaggio. Tu sei il cervello e il sistema nervoso centrale dell'astronave e le tue responsabilità comprendono la sorveglianza degli uomini ibernati. Questo ti causa mai una certa apprensione? Possiamo dire questo, signor Emmer. La serie 9000 è il laboratorio più sicuro che sia mai stato creato. Nessun calcolatore 9000 ha mai commesso un errore o alterato un'informazione. Noi siamo, senza possibili eccezioni di sorta, a prova di errore e incapaci di sbagliare. HAL, malgrado il tuo immenso talento, ti senti mai frustrato dal fatto di dover dipendere da altri per svolgere le tue funzioni? Nemmeno minimamente. A me piace lavorare con la gente. Ho rapporti diretti ed interessanti con il dottor Poole e con il dottor Bowman. Le mie responsabilità coprono tutte le operazioni dell'astronave, quindi sono perennemente occupato. Utilizzo le mie capacità nel modo più completo, il che io credo è il massimo che qualsiasi entità cosciente possa mai sperare di fare. We'll be right back. Ci siamo, insomma, dopo un'oretta e qualche minuto sicuramente che non mettevamo bocca nel lungo fluire dei suoni, dei pensieri, delle emozioni, un filo, insomma, così particolarmente impreparato, non preparato, ecco, però insomma, o comunque preparato, ma poi ci siamo saputi mischiare a dovere. Va bene, ci siamo, insomma, se è l'ultima diamo i saluti a tutti e a tutte. Noi non ci rivedremo, non ci risentiremo, rivedremo radiofonicamente, è un eufemismo naturalmente, fino a almeno la seconda metà di settembre come minimo, vediamo un po' come vanno le cose, altrimenti non so, magari la prossima settimana vi regaleremo comunque una piccola selezione, non sappiamo. Continuate a essere sintonizzati sulle frequenze di Radio Onda Rossa 87.9 della modulazione di frequenza della banda romana e laziale, continuate a sostenere la radio anche in questi mesi estivi, www.ondarossa.info il sito, 61 80 40 01 è il numero del conto corrente postale da intestare a Cooperativa Culturale Laboratorio 2001, via dei Volsci 56 00185, Roma San Lollo, 06491750, qualora ci vogliate chiamare. Il nostro saluto più importante non può che andare a tutti e a tutte coloro che ci ascoltano da condizioni di limitata libertà personale, carcere, latitanza, clandestinità, arresti domiciliari, i centri di detenzione per migranti, le assurde leggi e decreti amministrativi che ci costringono a restare relegati in determinati territori. Questa è Radio Onda Rossa. Fantasma, non so se vuoi aggiungere tu. Un ultimo saluto, insomma, a mezzanotte e 40, sempre all'ascolto di Radio Onda Rossa. Questo è 25 o'clock che giunge al termine. E quindi un saluto agli ascoltatori e alle ascoltatrici di Radio Onda Rossa. Ringrazio la radio stessa e ci sentiamo presto. E noi abbiamo preparato la sigla nel frattempo, numero 10, ovviamente come sempre. Ce ne andiamo tutti sotto e tutte voi sotto la luna comunista. Dai e a presto. Dai e. Dai e.